il più bravo. Sogno un paese dove in Parlamento non sono eletti i condannati in forma definitiva. Io lo capisco che un condannato in forma definitiva deve essere riabilitato alla vita normale, ma siamo 60 milioni di persone. Dio santo, saremo in grado di eleggerne 900 incensurati? Che vuol dire? Cioè che per quella persona, per esempio, lei avrebbe chiesto il certificato penale? Guardi, io ho iniziato dall'anno scorso, da quando sono diventato presidente della commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale al Senato, a chiedere il certificato penale e informazioni ai carabinieri su tutte le persone che si propongono come consulenti. È stato un metodo condiviso da tutti i senatori e tutte le senatrici della commissione e io non credo che sia un metodo sbagliato. Non so, penso che i cittadini siano abbastanza d'accordo. E questo era Ignazio Marino al microfono di Alessandro Milan. Elisabetta Fiorito, altro da aggiungere sulle polemiche appunto intorno a Beppe Grillo? Sì, appunto abbiamo Emma Bonino che si mette dalla parte di Ignazio Marino e dice: non esiste un vate retro Satana, quindi tutti possono concorrere, anche Beppe Grillo. Alessandra. Grazie Elisabetta Fiorito. Allora noi adesso andiamo a sentire la voce diretta di Beppe Grillo, che ha appunto deciso di candidarsi. Nel suo blog, dicevamo, il comico ha spiegato che dalla morte di Enrico Berlinguer in poi nella sinistra c'è il vuoto. E allora sentiamo Grillo intervistato da Paolo Piacenza. Io voglio arrivare a parlare a milioni di giovani che hanno creduto in un progetto che non c'è mai stato, i quali poi credono assolutamente in queste idee che portiamo avanti sull'energia, perché sono le idee del futuro. Andremo ad aprire qualche cosa che è sempre stato chiuso, quindi la gente che ha vissuto di politica in questo senso dovrà andare via immediatamente. Ma in realtà il PD è un partito complesso, perché è un partito che è carico di una storia complessa. Sì, ma non c'è più la storia complessa, non c'è più. Cioè è un partito che ha fatto da sponda a Berlusconi per tutti questi anni, è un partito che vuol fare gli inceneritori, privatizzare l'acqua, è un partito che non parla di ha fatto l'indulto e non parla sul nucleare, è un partito che non c'è, neanche chiamarlo partito, neanche democratico. Non c'è niente, non c'è nulla. Allora apriamo al nulla a qualche cosa. Leggendo i commenti sul blog alla sua, alla sua candidatura, leggo che qualcuno, come dire, dei suoi sostenitori sembra un po' perplesso rispetto a questa scelta. Giusto perplesso, ma non è altro che portare le 5 stelle a livello nazionale. Quindi noi saremo sempre con i nostri gruppi, con le liste civiche, ci prepareremo con le liste regionali, noi saremo sulle idee. Le ideologie non ci interessano più, noi parleremo di acqua, parleremo di energia, parleremo di bloccare il nucleare, riformeremo veramente questa, ma è semplice, è molto semplice, abbiamo le idee e questi invece parlano di altre cose. Nel suo post c'è un riferimento a Enrico Berlinguer. Da Berlinguer in poi, certo. Quindi secondo lei c'è stata una fase in cui invece l'opposizione aveva un profilo diverso? Ma certo, ma Berlinguer metteva al centro la questione morale, ma se lo vede adesso oggi Berlinguer vedere queste cose, il lodo Alfano, vedere il processo Mills, se lo vede lei, sono persone di un'altra generazione, si vede lei Pertini che firma il lodo Alfano. Noi ora andiamo a Belfast, Irlanda del Nord, dove per oggi è attesa un'importante marcia orangista, ossia dei protestanti dell'Ordine di Orange, che attraverseranno anche alcuni quartieri cattolici. Per questo, come sempre, si temono scontri. A Belfast c'è Gianpaolo Musumeci. Gianpaolo, allora, che cosa rappresenta per gli orangisti questa parata e che aria tira? Allora, buongiorno da Belfast. In questo momento stiamo lasciando la City Hall, la piazza del municipio. Forse sentite sullo sfondo il suono dei tamburi. In questo momento c'è una fiumana arancione che sta attraversando la città. Si celebra la vittoria inglese sugli irlandesi di più di 300 anni fa. Questa celebrazione fa correre un sacco di gente dall'intera Inghilterra, ma anche dalla Scozia, per cui un quartiere assolutamente festante, chiassoso e colorato. La parata in realtà doveva essere ieri ed è stata spostata ad oggi, lunedì, perché si è detto ufficialmente i protestanti, per motivi religiosi, non possono fare questa celebrazione appunto di domenica. La realtà è che l'aria che tira qua a Belfast è molto molto pesante, c'è molta tensione e negli anni scorsi la parata è sempre stata motivo di conflitti, di tensioni, di scontri veri e propri. infatti, diciamo, il lato B, il lato più oscuro di queste celebrazioni lo abbiamo vissuto in prima persona proprio ieri notte. Eravamo in un quartiere cattolico, quello attorno a Carlisle Road, che è vicino a Shankill Road, che è la grande via unionista, quella storica. Ebbene, dopo l'accensione dei bonfire, che sono queste grosse pire che vengono accese dagli unionisti per, appunto, per questa celebrazione, dove però si bruciano icone e bandiere irlandesi, i fiumi d'alcol hanno scatenato accessi d'ira. I ragazzi armati di sassi e di bastoni hanno tentato di scavalcare i muri che qui ancora oggi separano i quartieri cattolici da quelli irlandesi. Cosa è successo? Beh, lanci di Molotov, successive cariche della polizia, auto incendiate e, come ripeto, tantissima tensione. E oggi la marcia proseguirà almeno fino alle 17, quando attraverserà il quartiere di Ardoyne, che è l'altro grosso quartiere della working class, della classe operaia cattolica, e lì purtroppo si temono scontri molto molto più violenti. Abbiamo visto in alcuni quartieri preparare le Molotov. Grazie allora Gianpaolo Musumeci, collegato con noi dal Belfast. Naturalmente torneremo a collegarci con te nelle prossime edizioni del GR, soprattutto, e speriamo che non sia così nel caso ci dovessero appunto essere scontri. Ora invece andiamo a sentire dove ci porta oggi il nostro gastronauta Davide Paolini. Mezzogiorno di Cuoco oggi vi porta a Parma, pochi minuti dal centro. In un'antica osteria di posta si trova l'Osteria Treville. Qui cosa si può mangiare, visto che siamo a mezzogiorno? Il fiore all'occhiello del menù è la torta fritta, ovvero quei triangolini di pasta fritta da gustare caldi con salumi misti, prosciutto, culatello e coppa, che ovviamente sono i grandi salumi e parmigiani. Bene, si possono mangiare sicuramente anche altre cose, però questo che vi propongo oggi è appunto un mangiare molto particolare con questa torta fritta che via via sta scomparendo, è sempre più difficile da trovare. Le 13.34, GR Extra Large, relazione del presidente della Consob. L'interesse del cliente deve essere prioritario per le banche. Cardia ha detto anche che sono stati avviati controlli su 5 istituti bancari per verificare la correttezza del comportamento verso i clienti. Poi ha lanciato un allarme. Gran parte delle imprese medio-piccole rischia l'asfissia per mancanza di credito. Interrogatorio di garanzia per Luca Bianchini e Regina Celi, il presunto stupratore seriale di Roma. Il difensore dice la prova del DNA non è schiacciante. Il DNA infatti è compatibile, ma non identico a quello dello stupratore. E poi il caso dell'omicidio dell'estetista Bari, indagato l'ex fidanzato di Anna Costanzo. La politica, il Partito Democratico in agitazione per la candidatura di Beppe Grillo alle primarie. Fassino ha minimizzato, è solo una provocazione di un uomo di spettacolo, e poi ha detto fondi un suo partito. Ma Grillo ha replicato: ho la tessera del PD, posso candidarmi. Barack Obama promette faremo luce su una strage di detenuti talebani avvenuta in Afghanistan nel 2001. E poi accordo fatto ad Ankara per la costruzione del gasdotto Nabucco. Sarà un'alternativa alle forniture russe. Allora, lo dicevamo poco fa nel riepilogo delle notizie, l'intervista rilasciata da Barack Obama alla CNN, un'intervista che la televisione americana trasmetterà oggi, ma che è già presente sul sito internet. Buongiorno ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, ci senti? Buongiorno a voi. Alberto, allora sentiamo che cosa ha detto il presidente americano, che di fatto ha fatto un altro passo avanti nella strategia della trasparenza. In sostanza ha assicurato che ci sarà un'indagine sulla strage di detenuti talebani in Afghanistan avvenuta nel 2001. Allora ricostruiamo l'intervista di Obama. È stato portato alla mia attenzione il fatto che non si sarebbe investigato a dovere. In una intervista alla CNN, Barack Obama fa sapere di essere favorevole ad un'inchiesta che faccia luce sulla strage di detenuti talebani avvenuta in Afghanistan nel novembre 2001. Così ho chiesto al mio staff per la sicurezza nazionale, spiega Obama, di raccogliere per me i fatti noti. Quando avremo messo insieme tutte le informazioni, probabilmente assumeremo una decisione sul tipo di approccio. A pochi giorni dalla conquista di Kabul, ha scritto due giorni fa il New York Times, almeno 1500 prigionieri talebani vennero uccisi dagli uomini di Abdul Rashid Dostum, signore della guerra, sul libro paga della CIA. I detenuti furono lasciati morire per soffocamento dentro ad alcuni container oppure crivellati di colpi di arma da fuoco sparati dagli uomini di Dostum. Il quotidiano ha anche rivelato che il governo di George W. Bush ha ripetutamente scoraggiato un'inchiesta avviata dall'FBI, dal Dipartimento di Stato e dalla Croce Rossa dopo la scoperta di alcune fosse comuni. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Alberto Negri, allora, che cosa si sa di questa strage di detenuti talebani? Secondo te, insomma, è verosimile che l'amministrazione Bush abbia insabbiato totalmente il caso? Innanzitutto vi do una notizia, perché mi trovo ad Herat, il generale Castellano, che comanda le truppe italiane, il comando regionale, Abula Morgab, dove è stato ucciso un militare dell'esercito afghano in un posto di blocco dove si trovavano pochi minuti fa. Ecco, questa è una notizia per noi, Alberto. Parli di qualcosa? Certo che è una notizia. E la seconda cosa, questa cosa della strage di Mazar-e Sharif, la sapevamo tutto già allora e ne abbiamo scritto abbondantemente sui giornali. Fu preceduta da una rivolta clamorosa nel carcere di Mazar-e Sharif, non so se vi ricordate, quando i talebani insorsero, perché furono messi tutti in una specie di forte, interrogati dalle autorità americane e dagli uomini di Dostum. Ci fu una rivolta clamorosa con centinaia di morti, Dostum perse 150 dei suoi e poi si vendicò all'Afghana, naturalmente, facendo fuori forse molto più di 1500 persone, si parla addirittura di 2005, allora si era detto persino 3000, no? E fa parte purtroppo di quello che era successo allora, che allora fosse stata avviata un'inchiesta o insabbiata importava poco a tutti, e credo che importi pochissimo anche adesso qui in Afghanistan, visto quello che sta succedendo. In realtà i talebani non sono tanto interessati a questo episodio, eventualmente sono interessati allo stato di detenzione dei loro compagni che sono a Bagram, una sorta di nuova Guantanamo dell'Afghanistan. Ecco, però Obama... Certo, l'episodio di... Prego, prego, Alberto. No, certo che questo episodio, che peraltro era ben conosciuto, quindi non è affatto nuovo, mette in luce quello che è il problema del paese, un problema dove ci sono ancora al potere personaggi come Dostam, che io ricordo di averlo intervistato 10 anni fa nel 94, entrai nel cortile di casa sua, che era una specie di fortezza, e c'era del sangue sul muro, pensavo che avessero sgozzato un agnello, no, avevano appena ammazzato una persona con un blindato schiacciandola contro un muro. Questo è quello che succede qui in Afghanistan, e questa strage, una vendetta di Dostam, non ha impressionato i talebani forse più di tanto. Alberto, ecco, noi spieghiamo agli ascoltatori che tu appunto sei collegato con noi da Herat, quindi abbiamo dei tempi tecnici di ritardo nella telefonata, quindi a volte ci sovrapponiamo. E dicevamo, agli afghani interessa poco di questo caso che citavamo prima, tu ci dicevi, però di fatto Obama sta cambiando posizione, vuole fare chiarezza su molte cose. Se non interessa agli afghani, alla comunità internazionale interessa? Tu credi in questo cambiamento o no? Ecco. Agli afghani vi ho detto cosa interessa, soprattutto i talebani. Interessa la questione della prigione di Bagram, che appunto diventava una sorta di nuova Guantanamo, ed è questo uno dei punti che loro chiedono per aprire un eventuale trattativo, un eventuale negoziato, no? Quando si parla appunto della possibilità di negoziare con la guerriglia, con gli insorgenti, come vengono chiamati adesso. E questi episodi appunto non credo che siano molto interessanti oggi per gli afghani, credo che sono interessanti per noi per capire come funzionavano certe decisioni alla Casa Bianca allora, come hanno continuato a funzionare successivamente nella guerra in Iraq, cioè con una certa faciloneria e un occultamento di quelle che erano le cose che succedevano sul campo. Ricordatevi che nel momento in cui accadevano questi episodi, a condurre la guerra era la coalizione afghana dell'Alleanza del Nord. I militari americani sul campo non erano più di 200 o 300. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, collegato in questo momento con noi da Herat, Afghanistan. Noi continuiamo a parlare dell'amministrazione Obama, che è intenzionata a far luce anche su un'altra vicenda. Sarebbe stato l'ex vicepresidente Dick Cheney a concedere alla CIA l'autorizzazione ad avviare certe procedure segrete, torture comprese. Allora, Giulia Crivelli, come ne parlano oggi i giornali americani? C'è veramente su tutti i quotidiani e sui siti naturalmente dei network, quindi dal New York Times, Washington Post, LA Times, Huffington Post, CBS, basta veramente dare un'occhiata su internet e c'è di tutto, perché la questione non è tanto che la CIA avesse avuto l'autorizzazione da Cheney a compiere certe operazioni, quanto il fatto che la CIA non ha mai, come invece prescrive il National Security Act del 1947, una delle, diciamo, la legge quadro sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti tuttora in vigore, la CIA non ne ha parlato al Congresso. E a questo punto sono sia i senatori e i rappresentanti della Camera dei Rappresentanti democratici, che sappiamo sono in maggioranza, sia i repubblicani a dire che nessuno è sopra la legge, che quindi l'errore non è stato semmai, perché sappiamo che dopo l'11 settembre sono state approvate misure eccezionali ed è passato troppo poco tempo perché gli americani possano dire che non erano giustificati, perché la ferita è ancora aperta sicuramente, quindi non è tanto quello quanto il fatto che fosse tutto ammantato da questo segreto. Dick Cheney si è reso praticamente irreperibile, quindi vedremo quanto e come, soprattutto sotto le pressioni dei media, perché ancora una volta è partito da una rivelazione del New York Times questa cosa, vedremo quanto ancora, visto poi Obama è il certo come campione di trasparenza, come andrà avanti, riuscirà a fare. A proposito di Obama, il giudice che lui stesso ha scelto per la Corte Suprema, la Sotomayor, si prepara al question time. Che cosa, perché ne parlano così tanto i giornali? Ma soprattutto Washington Post, che è appunto il quotidiano della capitale, è molto interessante secondo me vedere come ancora una volta funziona questo balance of power, cioè sappiamo c'è un po' una gerontocrazia, se vogliamo, negli Stati Uniti per quanto riguarda la Corte Suprema, perché i giudici vengono rimpiazzati solo quando, per esempio, quando muoiono, quindi possono anche essere molto vecchi. La Sotomayor appena appunto è stata la più recente, è stata la scelta di Obama per rimpiazzare un giudice che non c'è più, e ora però deve andare al Senato e sottoporsi a qualsiasi tipo di domanda. Naturalmente saranno soprattutto i senatori, in questo caso repubblicani, a farle le domande più, diciamo, più dure, più imbarazzanti. Quello che si vuole stabilire, soprattutto guardando la sua storia passata, tutte le decisioni che ha preso, i casi su cui ha deciso, ha fatto anche l'avvocato prima di essere giudice, quindi è stata da entrambe le parti della barricata, si vuole stabilire che possa essere completamente imparziale, perché appunto la giustizia deve essere cieca e quindi lei non deve avere, sì certo ha dichiarato, poi è stata scelta da Obama, quindi ha ovviamente, certo, però deve dichiarare imparzialità, ma, insomma, sì, la sua storia professionale deve dimostrare questa imparzialità. Grazie Giulia Crivelli, ci risentiremo con te domani per la rassegna stampa internazionale. Ora tiriamo un po' il fiato, sorridiamo con la 25esima Biennale Internazionale dell'Umorismo nell'Arte, che si svolge a Tolentino, provincia di Macerata. 1200 le opere arrivate da tutto il mondo, inviate da oltre 500 artisti in rappresentanza di 55 paesi. È stata fatta una selezione, l'ha fatta Giorgio Forattini, presidente della giuria, che ha selezionato 80 artisti che ora espongono nella collettiva di Palazzo San Gallo. Tema scelto per quest'anno dal direttore artistico Maurizio Costanzo: i bambini ci guardano e ridono di noi. Adriana Fracchi ha intervistato Walter Corda, coordinatore della direzione artistica della rassegna. Il nome della Biennale è lungo e complesso, è nata negli anni 61, insomma è pomposo apparentemente, Biennale Internazionale dell'Umorismo nell'Arte, ossia qualsiasi cosa nell'arte che possa divertire, che possa far ridere, è ben accetto in questa Biennale. Un concorso che esiste da quasi 50 anni, quasi, dico, perché 25esima sarebbe automatico fare il conto, 2 anni, 25esima Biennale, ma vabbè, che senso ha ridere oggi? Beh, io mi rifarei, perché è doveroso per me citare anche la direzione artistica di Costanzo, alla presentazione che ha fatto Costanzo nel catalogo di questo concorso. Costanzo parla giustamente della Biennale e nei 2 anni, diciamo che un anno si ride, nel senso che c'è il concorso, la premiazione, le opere divertenti, e nell'altro si pensa, e oggi c'è di che pensare piuttosto che ridere. La risata è l'altra faccia della medaglia. Spesso i bambini, e qui veniamo al tema di quest'anno, i bambini ridendo scoprono le nostre debolezze, scoprono l'errore dell'adulto, dove diventiamo ridicoli, perché hanno ancora l'innocenza di vedere forse la vita semplificata, spesso più realisticamente, più obiettivamente, come è la vita. E noi adulti tutti ce lo dimentichiamo. Infatti, ecco, il tema che Costanzo aveva dato a questo concorso della Biennale quest'anno era: i bambini ci guardano e ridono di noi. Sono le 13.49, GR Extra Large, ne parlavamo prima nel riepilogo delle notizie. Alle 13.30 è stato firmato questa mattina ad Ankara l'accordo che darà il via libera alla costruzione del gasdotto Nabucco, che dovrebbe rappresentare un'alternativa alle forniture russe. In questo caso, infatti, il gas arriverà dall'Azerbaigian e attraverserà 5 paesi, i paesi appunto che oggi hanno siglato l'intesa. Marta Ottaviani, in diretta da Istanbul. Allora, un po' brevemente, quali sono le caratteristiche di questo gasdotto e soprattutto qual è la sua importanza? Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Il gasdotto Nabucco è un gasdotto che sarà lungo 3.300 chilometri e andrà a ridisegnare completamente le rotte future dell'energia. Passerà da Turchia, Bulgaria, Romania, Ungheria e Austria e porterà il gas del Caspio all'Europa. Quindi insomma si tratta di un progetto molto importante, soprattutto per quanto riguarda il rifornimento energetico dei prossimi decenni. Ecco, è veramente un'alternativa al gas russo. Abbiamo assistito negli ultimi mesi il famoso stop and go, insomma interruzioni di fornitura dalla Russia e così via, oppure ci sono delle novità in questo senso? Ci sono novità anche di una certa consistenza, perché se la Turchia, sono almeno un anno che continua a dire che il progetto Nabucco rimane aperto a tutti, nello specifico Russia ed Iran, proprio questa mattina quotidiani turchi, citando fonti vicine alla Casa Bianca, hanno detto che anche gli Stati Uniti sarebbero assolutamente favorevoli a vedere un ingresso della Russia all'interno del progetto Nabucco in una fase avanzata, quindi far entrare prima il gas a zero, il gas del Turkmenistan. Proprio oggi dal Turkmenistan è arrivata la notizia che anche loro stanno considerando appunto di entrare nel progetto Nabucco, e in un secondo momento anche la Russia. Le opinioni di Turchia e Stati Uniti rimangono completamente divise sull'Iran, mentre Ankara aprirebbe volentieri anche a Teheran, da Washington la porta rimane completamente chiusa. Grazie a Marta Ottaviani, collegata con noi in diretta da Istanbul. Noi ora invece parliamo della riforma del processo civile che è partita il 4 luglio scorso. Uno dei punti chiave è un ruolo maggiore previsto per i giudici di pace, che avranno a che fare con un numero maggiore di cause e una competenza raddoppiata. Ma proprio i giudici di pace hanno proclamato a partire da oggi fino al 18 luglio una settimana di sciopero, di astensione dalle udienze, per attirare l'attenzione sulla mancata riforma della magistratura onoraria. Anna Marino ne ha parlato con Franco Petrelli, che è presidente onorario dei giudici di pace. Lo sciopero è una misura estrema, soprattutto quando si adotta lo sciopero in un settore così delicato e così critico come quello della giurisdizione. Però i giudici di pace sono costretti oggi a ricorrere allo sciopero perché la disattenzione del governo nei confronti delle loro istanze ha raggiunto dei livelli non più tollerabili. Disattenzioni perché? Nel momento nel quale il governo, le istituzioni attribuiscono al giudice di pace maggiori competenze sia in campo civile che in campo penale, per esempio il reato di immigrazione clandestina, nello stesso momento il governo si rifiuta di prendere in considerazione le richieste dei giudici di pace, le richieste minimali. Detta in poche parole, cosa vogliono i giudici di pace? Almeno che si riconosca la continuità nell'incarico, perché altrimenti i giudici di pace sono soggetti all'incognita del se e quando e per quanto tempo verranno confermati nell'incarico, e vogliono che si riconosca loro uno status previdenziale adeguato. Questa riforma del processo civile punta a snellire il rito. Sì. Secondo voi l'aumento anche del numero delle cause per quanto riguarda i giudici di pace non è un fatto positivo, non va nel senso dello snellimento? Ma sicuramente non va nel senso dello snellimento nei confronti del giudice di pace. Snellirà ulteriormente il lavoro del tribunale, che già vede sottratto da parte del giudice di pace il 50% di tutte le cause civili. Accettiamo volentieri di far fronte a questo nuovo carico di lavoro, ma vogliamo che dall'altra parte ci sia una maggiore attenzione ai nostri problemi. E ora una nuova puntata della nostra marcia di avvicinamento ai mondiali di nuoto, che inizieranno a Roma sabato 18 luglio. Roma 2009, mondiali di nuoto. Ai giochi olimpici di Sydney 2000 vennero utilizzate addirittura delle reti speciali per proteggerli dai possibili attacchi degli squali in mare aperto. La vita dei nuotatori di fondo ai mondiali di Roma non sarà così dura, ma c'è da giurarci che nelle acque di Ostia uomini e donne si daranno battaglia sulle distanze dei 5, 10 e 25 chilometri a caccia di medaglie mondiali nel mare capitolino. La grande speranza azzurra è Valerio Cleri, 28 anni di Palestrina. Sogna la rivincita, Valerio, dopo aver sfiorato la medaglia a Pechino 2008, quarto nella 10 chilometri. No, ma diciamo che per me Pechino non è stata una delusione, perché già essere arrivati a gareggiare alle Olimpiadi per me era solamente un sogno. Poi sono arrivato fino al punto di potermi giocare una medaglia, purtroppo è andata così. Sono contento di quello che ho fatto e per me non è stata assolutamente una delusione. Certo, arrivare a un soffio dal podio, un po' di amarezza resta, comunque tutto quanto smaltito, ho ripreso subito bene e adesso mi sto allenando, insomma finita una gara ce n'è sempre una nuova da preparare. Ecco. Correnti, temperatura dell'acqua, vento, fatica, tanti gli elementi in gioco in una gara di lunga durata in acque libere, anche se dal punto di vista tecnico il mare romano non preoccupa troppo Cleri e gli altri azzurri. Il mare di Ostia è un mare, diciamo, abbastanza semplice, insomma, ecco, la temperatura non è particolarmente fredda. In un particolare tratto del percorso questi giorni ci stiamo allenando proprio di fronte, proprio nella zona dove verrà montato il campo di gara. Ad un certo orario, tipo verso le 11 del mattino, comincia a alzarsi un po' di vento, quindi sicuramente ci sarà un po' di corrente, ecco, tutto qua. Comunque non è un mare particolarmente difficile, insomma. Senza dimenticare però che il nuoto di fondo è anche sport di contatti fisici, spesso proibiti. Si sta tutti quanti in gruppo, tutti quanti insieme, come un qualsiasi sport di long distance, insomma, come il ciclismo, come le maratone. Solo che nell'acqua, un po' come nella pallanuoto, c'è il vero e proprio contatto fisico e molte persone sono anche abbastanza scorrette e giocano su questa componente. Insomma, bisogna essere bravi a rimanere calmi, concentrati, freddi e soprattutto non lasciarsi prendere dall'agitazione o magari lasciarsi prendere dalla battaglia, insomma, perché l'arbitro è sempre lì pronto a squalificare, a ammonire in qualsiasi momento, ecco. Insomma, che il mare di Ostia regali oro agli azzurri e un po' di relax ai tanti tifosi attesi al traguardo, come ci ricorda con ironia Valerio Cleri. La gente può guardare benissimo partenza e arrivo, poi nel frattempo si prende un po' di sole nel mare di Ostia, ecco, si prende un gelato, ecco, tanto mentre noi nuotiamo un po' di tempo ne passa, ecco. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Largo, curata e condotta da Alessandra Tedesco, al coordinamento Daniele Biacchessi, in regia Peter Bescapè. Il prossimo GR alle 15, noi ci risentiamo come sempre con Extra Large domani alle 13. GR 24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.